Benvenute a tutte, tutti e tutto. Io sono molto felice che non una di meno Milano ospiti questo incontro. Intanto, davvero due parole su non una di meno, dando un po', forse sarà ridondante perché magari tutte sapete di che cosa stiamo parlando, però non una di meno è un movimento femminista e transfemminista che nasce oramai 5 anni fa. Un po' di più, sull'onda di un ennesimo terribile femminicidio in Italia, ma anche sull'onda di una mobilitazione che negli stessi mesi stava partendo in Argentina al grido di Ni una menos, non una di meno. Per cui è un movimento femminista e transfemminista che lavora contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, riconoscendo però questa violenza come un fatto strutturale, per cui andando poi ad analizzarla in tutti gli aspetti delle nostre vite, anche quelli non direttamente colpiti dalla violenza intima, dalla violenza domestica. Per cui fin da subito abbiamo sentito la necessità di occuparci appunto di temi diversi e di luoghi e aspetti diversi in cui questa violenza si manifesta, dalle istituzioni alle relazioni intime, dagli spazi politici a quelli della scuola, dai tribunali agli ospedali. E abbiamo lavorato per più di un anno per scrivere un piano che si intitola Abbiamo un piano contro la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere, e che trovate sul sito di Non Una Di Meno, nonunadimeno.wordpress.com, se volete andare a vederlo. E in questo piano, appunto, viene analizzata la violenza in tantissimi dei suoi aspetti e nei molti modi in cui si può lottare contro questa violenza. In particolare, sono molto felice di che Non Una Di Meno ospiti questo incontro che va, come dire, riconosciuto, ma poi si capirà meglio perché ci tengo a dirlo, è nato dalla condivisione che Silvia coraggiosamente e generosamente ha fatto della sua storia personale dentro gli spazi collettivi, di Non Una Di Meno, fino a portarla in piazza l'8 marzo, e non solo. E però è un incontro questo che speriamo sia anche il primo di una serie di spazi di discussione, condivisione, dialogo, confronto e lotta politica che si inserisce in uno dei punti cardine per Non Una Di Meno rispetto alla salute delle donne e delle soggettività LGBTQIA+, in primis. Non una di meno, ma come l'OMS riconosce la salute non come assenza di malattia, ma come una condizione di benessere, quindi va molto oltre l'assenza di malattia, e per questo noi sappiamo che proprio la sfera sessuale e riproduttiva degli apparati genitali è una sfera che non solo è spesso trascurata, ma spesso è anche vittima di pregiudizi e di violenza. In questi giorni, per fortuna, come ogni tanto riemerge, sono riemerse moltissime storie e narrazioni di violenza ostetrica. Dico per fortuna sono riemerse le narrazioni, non la violenza ostetrica, ovviamente, ma sappiamo che non è solo questo, è una concezione della salute che cerca di inserire troppo spesso i corpi dentro delle norme e delle norme che sono binarie e abiliste. Il caso anche qui più eclatante è quello dei corpi intersessuali che vengono ricondotti a uno dei due sessi pur nascendo con dei genitali ambigui, creando, come dire, grossissimi problemi anche solo per il fatto di aver sottoposto dei corpi di neonati a delle operazioni chirurgiche, ma sappiamo quanto l'esperienza della transizione sia ancora normata e difficile, quanto sia difficile, per esempio, reperire i farmaci necessari alla transizione ormonale, ma sappiamo anche quanto, ed è quello di cui andremo a parlare stasera, molto spesso di fronte a qualsiasi dolore o disordine o malfunzionamento, diciamo così, del ciclo ormonale delle donne o di chiunque abbia un utero, la risposta è prendi la pillola. Quindi come ci sia una sottovalutazione spesso di tanti dei sintomi. Ecco, il fatto che i corpi delle donne, in particolare delle soggettività LGBTQIA+, venissero misurati su un metro maschile che non era loro e troppo spesso, come dire, non studiati adeguatamente dalla medicina, è una cosa che i movimenti femministi hanno messo in luce fin dai loro albori, attraverso una mobilitazione, ma anche, quindi una richiesta di diritti, ma anche la costituzione di gruppi che mi piace pensare un po' simile a questo che stiamo inaugurando. Questa sera purtroppo non possiamo vederci in presenza, però i gruppi che hanno poi dato vita ai movimenti di self-help, di autoaiuto e di costruzione dal basso di sapere erano proprio dei cerchi in cui persone si mettevano lì, speculum in mano, a cercare di capire che cosa succedeva nelle loro vagine, nelle loro cervici e hanno dato vita a cose meravigliose come il libro che insomma probabilmente tutte conoscerete, ma se non lo conoscete, conoscetelo, Noi e il nostro corpo a cura del Women's Health Collective di Boston. Che è, appunto ed è molto bello perché anche il racconto di questa esperienza, no, di condivisione e di scoperta. Perché? Perché questa è una cosa su cui Nonnuna di Meno insiste molto, quindi ci tengo a dirla adesso. La medicina è un sapere, ovviamente, preziosissimo, che ci aiuta in tantissimi campi della nostra vita, ma è un sapere umano, non è una scienza infusa dal cielo, che subisce le modificazioni che ogni sapere e ogni sapere scientifico subisce, legate al fatto che, come ci insegna Donna Haraway, i laboratori, ma anche le sale chirurgiche, le aule di medicina, non sono degli spazi neutri, sono spazi attraversati dalle tensioni e dalle norme politiche che esistono fuori. Da quelli e quindi il sapere medico è un sapere che deve essere, non deve, ma è giusto che venga messo in discussione dai soggetti su cui poi quel sapere viene agito. E quindi una delle cose su cui Nonnuna di Meno insiste è la necessità di ripensare la relazione medico-paziente, riconoscendo il sapere prodotto dai corpi che abitano, no? Spesso la malattia o i disturbi, perché non sono corpi su cui agire, ma sono corpi con cui agire, ed è una distinzione importante e significativa. Per cui ecco, siamo molto felici appunto di poter dare vita a questo incontro. Dico solo un'ultimissima cosa prima di lasciare la parola a Silvia e Sara. Le esperienze femministe hanno dato vita a cose fondamentali, tra cui in Italia la creazione dei consultori che nascono con un ideale meraviglioso di essere dei luoghi in cui ci si prendesse carico davvero a tutto tondo della salute sessuale e riproduttiva delle donne, luoghi multidisciplinari, per esempio, no? In cui ci fossero le ginecologhe, le ostetriche, le psicologhe, le fisioterapiste, ma anche luoghi politici di assemblea e di discussione. Ecco, sono stati poi istituzionalizzati e questo è sicuramente un bene perché sono stati resi diffusi, però, e parliamo dalla Lombardia, ma in tutta Italia è così, poi sono stati anche definanziati, depotenziati, trasformati in altro in Lombardia, sono diventati consultori familiari, per esempio. E abbiamo visto nell'emergere della pandemia quanto siano stati questi i primi luoghi a chiudere. Per esempio, perché serviva personale medico in altri luoghi, così come i reparti di ginecologia, dove le donne hanno partorito senza anestesia, perché gli anestesisti servivano da un'altra parte, segnalando ancora una volta come questo aspetto della salute sia molto spesso a rischio. Per cui, ecco, quello di cui discuteremo stasera, teniamolo inserito in questo quadro più ampio, non perché appunto non ci sia una specificità, ma perché poi, così come nei nostri corpi, tutto è spesso connesso anche nei modi in cui i nostri corpi vengono trattati. Quindi io ringrazio moltissimo Silvia e Sara e tutte voi, tutti voi, tutto voi di essere con noi e lascio la parola a Silvia, ringraziandola appunto ancora molto. Grazie Carlotta, io in realtà avvio la presentazione di Sara che partirà parlandoci dell'endometriosi. Sara, quando vuoi, parti pure. Ok, parto quindi subito così in medias res. Di cosa parliamo quando parliamo di endometriosi? L'endometriosi è una malattia infiammatoria cronica progressiva, potenzialmente sistemica e potenzialmente invalidante, in cui il tessuto simile endometriale si trova all'esterno dell'utero, più spesso nella cavità pelvica e addominale, meno frequentemente nelle sedi più distanti come polmoni e diaframma. In modo analogo all'endometrio, reagisce agli stimoli ormonali, causando infiammazione, irritazione, sanguinamento dei tessuti e organi su cui si trova, con conseguente sintomatologia dolorosa nella maggior parte dei casi. L'endo può essere anche silente, in quel caso spesso viene riscontrata durante la ricerca di una gravidanza che tarda ad arrivare. I meccanismi di eziopatogenesi non sono stati del tutto chiariti, ad oggi non esiste una cura definitiva e le terapie e i trattamenti disponibili possono essere d'aiuto nella gestione dei sintomi. Tra le terapie e i trattamenti abbiamo terapia ormonale farmacologica, la chirurgia, la riabilitazione del pavimento pelvico, l'alimentazione, il supporto psicologico e insomma qualunque cosa ci aiuti a stare un po' meglio. I sintomi più comuni possono includere mestruazioni dolorose, prolungate e abbondanti, che devono essere un campanello d'allarme da non sottovalutare, soprattutto in giovanissima età, anche a partire dal menarca. Disturbi gastrointestinali, dolore alla defecazione e alla minzione, dolore ai rapporti sessuali penetrativi, dolore pelvico generalizzato e persistente, stanchezza cronica e infertilità. Allora, presi singolarmente, questi sintomi possono essere anche aspecifici riferiti ad altre patologie. Per questo è importante una diagnosi differenziale eseguita da chi conosce la patologia e che dunque ha una formazione medica adeguata. Al momento questa formazione medica adeguata è piuttosto carente. Il fatto che i comuni ginecologi e ginecologhe non siano in grado di riconoscerla e quindi di diagnosticarla costituisce un enorme problema. Tra l'altro, idealmente sarebbe molto utile che a conoscerla non fossero solo gli e le specialiste, ma anche i medici e le mediche di base, in quanto sono le prime figure a cui noi chiediamo aiuto. Alcuni numeri dell'endometriosi. L'endo riguarda circa il 10-15% della popolazione assegnata femmina alla nascita e dunque donne cis, uomini trans, persone intersex con la sindrome di Roche-Tyneski, persone non binarie. Per un totale di circa 176-200 milioni di persone al mondo. Con questi numeri possiamo tranquillamente parlare di malattia sociale. Il ritardo diagnostico è attestato ad oggi intorno ai 7 anni e mezzo. L'ho sottolineato 7 anni e mezzo perché mi sembra una quantità di tempo un po' troppo lunga per avere anche solo una diagnosi. E questo ritardo diagnostico può essere anche maggiore se si fa parte di categorie marginalizzate come le soggettività razzializzate o appartenenti alla comunità LGBTQ+. Insomma, le stesse discriminazioni che esistono nella nostra società si riflettono anche nella pratica medica, come ha ricordato anche Carlotta nella sua introduzione. La patologia incide in modo significativo sulla qualità di vita di chi ne soffre, incide in tutti gli aspetti, quindi a livello fisico, nel corpo, sulla salute mentale, sulla capacità lavorativa, e potete immaginare cosa questo significhi in un mondo che ci vuole sempre performanti e produttivi e produttive. Incide nella vita sociale, nei rapporti interpersonali, incide nella vita quotidiana e incide a livello economico. Infatti, nonostante il riconoscimento da parte dello Stato dell'inserimento dell'endometriosi nei LEA nel 2017, le tutele sono ancora parziali, l'esenzione è limitata, i finanziamenti risicati e terapie e trattamenti non sono sempre accessibili a tutti, tutte e tutto, con il risultato che per potersi curare lo si fa a costo di enormi sacrifici e alla fine risulta un privilegio riservato a chi se lo può permettere. Sappiamo che non dovrebbe essere così, quindi questo è anche un altro enorme problema. Per chiudere questa panoramica mi aggancio al discorso sulla discriminazione di genere in medicina, in quanto l'endometriosi ne costituisce un ottimo esempio. Tra gaslighting medico, sessismo e poca conoscenza dei corpi femminili, tutti questi elementi hanno portato alla normalizzazione, ad esempio, del dolore mestruale. E anche il tema stesso delle mestruazioni è ancora un argomento che risulta scomodo ancora oggi nel 2021. Ha portato alla normalizzazione del dolore sessuale femminile, a partire dalla famigerata perdita della virginità, sto facendo gli air quote con le dita, in cui è ammissibile, in cui il dolore è ammissibile da parte di chi ha una vulvovagina e che va a braccetto col fatto che il piacere femminile sia secondario o un influente. In definitiva, cresciamo con l'idea che una quota di dolore mestruale, sessuale o di altra natura faccia parte del nostro destino. direi che le cose potrebbero anche iniziare a cambiare. Siamo nel 2021 e ci siamo un po' stufate. Il mio intervento finisce qui, ho inserito qualche sito da cui ho preso le mie, insomma, le mie informazioni e niente, spero che se ci sono domande sono a disposizione e spero di, insomma, di non avervi annoiato. Grazie per l'attenzione. Grazie Sara. Allora, io vi parlo di vulvodinia, anche se tutta l'ultima parte che ha fatto Sara rispetto al gaslighting, alla normalizzazione del dolore, vale in toto anche per questa sindrome, che appunto è una sindrome cronica caratterizzata da dolore vulvare senza una causa chiaramente identificabile. La prevalenza in questo caso sembra essere 1 su 7, cioè una persona con vulva e vagina su 7. Quindi una, diciamo, una percentuale dei numeri molto significativi. Nonostante questo, ad oggi la vulvodinia non ha alcun riconoscimento da parte del Sistema Sanitario Nazionale. La vulvodinia è un termine ombrello che in realtà dal punto di vista scientifico riguarda la forma più generalizzata di dolore e bruciore vulvare, nel senso che si dice vulvodinia quando riguarda proprio tutta la vulva. Questa però è una forma abbastanza rara, più frequentemente la vulvodinia è più localizzata e va a colpire delle zone specifiche che possono essere la clitoride, l'uretra, l'ano, il coccige, ma la forma più frequente e comune è l'introito vaginale, ricchissimo di terminazioni nervose, che si chiama vestibolo, motivo per cui la forma, diciamo, prevalente è la vestibolodinia. La vulva, la nostra vulva dobbiamo conoscerla. Questo è un messaggio importante che ci lascia il femminismo, vale sia per le persone sane, ma soprattutto nel momento in cui subentra una sindrome, una malattia che riguarda la vulva, noi dobbiamo essere le prime a guardare quella parte, conoscere quella parte, sapere dove duole e saper dare un nome a quel tipo di dolore. Ho messo anche la clitoride perché l'anatomia della clitoride, che è di recente scoperta e definizione, non è ancora patrimonio comune, quindi ho scelto di aggiungere all'immagine della vulva l'immagine della clitoride a riposo e nella forma eccitata, per dire anche che quando la vulvodinia va a colpire la clitoride è una delle forme più fastidiose, perché a quel punto il dolore è anche all'eccitazione e addirittura l'orgasmo può essere doloroso. I principali sintomi della vulvodinia sono bruciore vulvare, sensazione di spilli, tagli, abrasioni, scariche elettriche vulvari, bruciore urinare, aumentata frequenza urinaria, cistiti e vaginiti ricorrenti, peso dolore vescicale, prurito vulvare o anale, dolore o bruciore vaginale o anale durante i rapporti, dolore all'eccitazione o all'orgasmo. Il problema della vulvodinia è che da un lato non viene studiata nelle facoltà di medicina, nemmeno nelle specializzazioni, e quindi è scarsamente conosciuta dal personale medico-sanitario. In secondo luogo è facilmente confondibile con altro, soprattutto le vaginiti e le cistiti, cioè la vulvodinia viene scambiata con vaginiti e cistiti. E quello che succede è che generalmente viene dato un antibiotico anche in assenza di tampone, e questo vuol dire che spesso finiamo a fare degli antibiotici inutili, perché se la vaginite o la cistite non hanno all'origine un agente patogeno esterno, batterio, fungo o che sia, l'antibiotico non solo si rivelerà inutile ma dannoso. Vaginiti e cistiti, questo è sempre come campanello d'allarme, che possono sorgere post rapporto, quindi anche questo è un segnale. Qual è il problema? Che viene anche definita una neuropatia, perché il nervo pudendo, questo illustre sconosciuto finché una persona non incappa in questa patologia, è un nervo che le cui terminazioni nervose vanno a innervare tutta la zona della vulva, dell'ano, del pavimento pelvico in generale. È un nervo che origina dal plesso sacrale e arriva appunto con tutte le sue terminazioni in tutte queste zone. Quindi nel momento in cui la sua funzione è alterata perché è infiammato per altri motivi, possono andare in crisi più parti che sono in questa zona. Zona, le pelvi, che tra l'altro è ricchissima di organi, tendini, muscoli, vasi, eccetera. Per cui, e qui poi ognuna deve conoscere le proprie sensibilità e i propri punti sensibili. Tante volte non si riesce a risalire alla causa della vulvodinia e generalmente è un insieme di concause che scatena la vulvodinia. Però diciamo che è importante che nel proprio percorso terapeutico ognuna arrivi a capire quali sono i propri punti sensibili. C'è chi ha una storia di cistiti, non è la mia storia, io vengo invece da una storia di più di 10 anni di problemi intestinali, con colite praticamente cronica, gastriti ricorrenti, problemi frequentissimi, a cui nessun medico ha più o meno dato rilevanza, peccato che molto probabilmente questa è stata una delle concause della vulvodinia che oggi è in forma grave. Il trattamento della vulvodinia, poiché è una sindrome multifattoriale, deve essere multimodale. Le 3 regole d'oro, diciamo, di base per chi è all'inizio del proprio percorso terapeutico, perché poi ovviamente ci sono storie complesse in cui queste cose sono già state tutte provate, però stando sulle basi, le 3 regole d'oro sono le norme comportamentali. Ne richiamo soltanto alcune, ma poi potremo condividere le norme comportamentali stilate dal GAV, che è il Gruppo Aiuto Vulvodinia, un'associazione di cui faccio parte. Il calore è un grandissimo aiuto applicato sulla pancia, perché appunto calma il dolore neuropatico. L'intimo di cotone bianco, non stare seduta in modo prolungato, fare delle pause ogni ora. E soprattutto avere molta consapevolezza del proprio pavimento pelvico quando si è in tensione, quando si è in tensione, imparare delle cose da fare per rilasciare. Perché non si sa per quale motivo, ma si crea una specie di cortocircuito, cioè non si sa chi causa cosa, se nasce prima l'uovo o la gallina, ma si crea una specie di cortocircuito tra nervi e muscoli del pavimento pelvico, per cui il dolore porta a una contrazione dei muscoli, come sempre quando proviamo un dolore in qualsiasi parte del corpo, ma la contrazione dei muscoli a sua volta comprime i nervi che resteranno infiammati e doloranti. Per questo motivo si agisce sia a livello di terapia farmacologica, e generalmente i farmaci sono di 2 tipi, vanno ad agire in parte sulla muscolatura, miorilassanti, e in parte sul sistema nervoso per cercare di rieducare i nervi e la trasmissione del segnale nervoso. E poi fondamentale è la riabilitazione manuale del pavimento pelvico, fatta da specialisti, specialiste, generalmente sono ostetriche oppure fisioterapisti o fisioterapiste del pavimento pelvico. Ho messo un quarto punto tra parentesi, la dieta, perché per chi come me viene da una storia di problemi intestinali, a quel punto, nel mio caso, niente è stato efficace quanto una dieta mirata. Per cui a seconda della propria storia poi ognuna appunto valuta, i percorsi terapeutici sono molto personalizzati. Intendiamo quando parliamo di riabilitazione del pavimento pelvico manuale? Qui vediamo 2 immagini del pavimento pelvico, una dal basso, quella di sinistra, l'altra diciamo vista dall'interno, dall'alto. Diciamo che la persona a cui ci siamo affidate da un lato sì ci insegnerà la respirazione, ci insegnerà anche sicuramente il comando rilascio per appunto aumentare la nostra consapevolezza sullo stato della muscolatura, della nostra muscolatura pelvica, ma poi andrà a trattare quelli che si chiamano i trigger point, e questo viene fatto a livello vaginale, a livello anale e anche esternamente su quei muscoli del pavimento pelvico che possono essere raggiunti dall'esterno. Io sconsiglio caldamente di fare tutto da sé. Questo perché? Proprio perché non c'è un riconoscimento da parte del sistema sanitario e proprio perché non esistono ambulatori pubblici se non uno, l'ambulatorio di patologia vulvare dell'ospedale Buzzi qui a Milano. In questo scenario c'è una, diciamo, pletora di soggetti privati più o meno onesti, più o meno preparati, in cui a volte è meglio non incappare, per cui entrare in un gruppo di mutuo aiuto da un lato vuol dire imparare dall'esperienza delle altre e quindi evitarsi certe brutte esperienze, dall'altro il valore è proprio che ci si sostiene a vicenda tra pari, perché purtroppo questa sindrome ha come qualsiasi forma di dolore cronico in realtà ha un impatto sul nostro benessere psichico, sul nostro benessere emotivo e anche sulle nostre relazioni sociali, in particolare andando a impattare sulla sessualità, ha un impatto anche molto alto sulle nostre relazioni affettive, erotiche e sessuali. Non sempre ci si sente capite dall'intorno sociale tout court, per cui potersi confrontare con persone che vivono la stessa esperienza è molto importante e è proprio di supporto. Io ho segnato quelli che per me sono stati i gruppi di riferimento, in primis appunto il GAV, che è un'associazione ma anche un gruppo di mutuo aiuto di cui faccio parte. Invece Liberi ci sono Unite per la Vestibolite, che è un gruppo Facebook aperto, e il gruppo di Cistite Info, sempre su Facebook. Vi ho lasciato i siti attraverso cui io, diciamo, ho imparato quello che ho più o meno condiviso in questa presentazione. Cistite Info, forse più utile per chi viene da una storia di cistiti. Vulvodinia Online, un sito recentemente creato e in continua implementazione, ma comunque ben fatto. Il GAV ha un profilo su Instagram e una pagina Facebook. Casa Medica di Bergamo ha una pagina Facebook ed è dove lavora la dottoressa Marra, che magari alcune di noi conoscono. E l'Associazione Italiana di Vulvodinia, fondata dal dottor Murina, che dovrebbe essere l'associazione italiana di riferimento, però è un po' più dedicata, anzi direi che mi sembra riservata al personale medico. Tuttavia nel sito ci sono delle informazioni e anche quel sito è in lavorazione, per cui credo che a breve pubblicheranno le ricerche svolte in particolare dal dottor Murina. Chiudo con alcune letture che a me sono state particolarmente utili e di supporto. Il primo è la testimonianza di Bruna Orlandi, nonostante libera il racconto come atto terapeutico. Poi un mal di testa nel bacino. E un po' più politico, la teoria della donna malata, e chiudo proprio con alcune parole dell'autrice. Come possiamo portare avanti la lotta politica se stiamo male, se stiamo molto male? Non è facile fare attivismo nel momento in cui il corpo non è, diciamo, non è in uno stato di salute. È difficile partecipare ad un corteo, può essere difficile anche solo stare fuori delle ore, può essere difficile partecipare ad alcune forme di manifestazione politica. Così, mentre me ne stavo distesa a letto, incapace di sfilare in corteo, di tenere un cartello in mano, di gridare uno slogan per farmi sentire o di essere visibile in qualsiasi altra forma tradizionale come essere politico, ha preso forma la domanda centrale della teoria della donna malata. Come si fa a lanciare un mattone contro le vetrine di una banca se non puoi alzarti dal letto? Uno degli obiettivi della teoria della donna malata è quella di resistere all'idea che sia necessario essere legittimate da un'istituzione, in modo che questa possa provare ad aggiustarvi. Non avete bisogno di essere aggiustate, mie regine, è il mondo che ha bisogno di essere rifatto. Un po' come ci dice Bellux, il problema è proprio questa società, questo sistema sociopolitico che richiede una certa performance ed è pensato su individui maschi, abili, benestanti, tagliando fuori tutte le altre soggettività che in realtà, se ci pensiamo, sono la maggioranza, perché se pensiamo alle persone anziane, ai bambini, alle persone malate, alle persone disabili, alle donne, e diciamo con donne intendo tutte quelle soggettività che devono necessariamente dedicare una parte del loro tempo alla cura di altri esseri umani e quindi alle relazioni. Se noi mettiamo insieme tutte queste persone sono la maggioranza. Quindi questa società parte su, diciamo, con un'idea di individuo che di fatto esclude la maggior parte degli individui, perché non contempla la vulnerabilità, non contempla la malattia, non contempla la sofferenza. E la lotta politica deve partire da qua. Bellux dice: il mondo deve essere ripensato a partire da chi sta ai margini e da chi, proprio perché vive proprio vivendo i margini, riesce a vedere i privilegi e le dinamiche di potere che sono agite nel mondo. Io vi ringrazio per l'attenzione e chiudo qui la registrazione in modo che possiamo scambiarci idee, riflessioni e magari anche storie per chi vorrà.